Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio speciale estate. Sapete bene che gli ultimi mesi hanno visto i mercati finanziari tornare ad essere molto volatili e molto incerti. Azioni e obbligazioni sono state ripetutamente scosse da eventi di crisi che non si sono sopiti, crisi che ha mostrato uno dei suoi volti inattesi, cioè la difficoltà degli stati sovrani di far fronte ai propri impegni finanziari, tanto che si è dovuto creare un grande, enorme meccanismo di salvataggio e sostegno per evitare la bancarotta greca e il domino tra gli altri paesi. In questa situazione di globale incertezza in cui si fa fatica ad avere una visibilità di medio periodo appunto sui mercati, molti investitori hanno preso altre strade diversificando nella misura più ampia possibile i propri investimenti. C'è chi ha cercato l'oro, ritenuto da sempre il rifugio per eccellenza, spingendo peraltro le sue quotazioni su livelli record, chi ha mantenuto estremamente liquido il proprio portafoglio in attesa di tempi migliori, chi ha potuto permettersi invece qualcosa di molto alternativo e ha spaziato anche nel mondo dell'arte e in gestione finanziarie piuttosto particolari. Oggi vi racconteremo quale tipo di interesse stanno registrando gli investimenti in ambiti alternativi, quali sono anche le nuove politiche commerciali in questi settori. Buongiorno e grazie per essere con noi a Bruno Manera, Sales Manager Italia di Banca Generali, responsabile della rete Private Banking. Buongiorno. Buongiorno. Perché l'abbiamo invitato? Perché questo gruppo ha creato una gestione di portafoglio che si chiama Lifestyle, che investe in fondi dediti al vino e per una piccola parte anche in orologi antichi, quindi una novità che peraltro è stata così introdotta sul mercato credo da pochissimo tempo, dottor Manera. Da un mese, quindi ci deve anche raccontare che tipo di accoglienza ha avuto da parte dei vostri clienti. Parleremo anche dell'antiquariato, perché anche questo è un settore in discreto movimento, forse lo è sempre, ma magari non guadagna sempre la ribalta della cronaca, forse riesce a farlo solo in frangenti finanziari di crisi. Buongiorno a Giancarlo Ciaroni, direttore della galleria Altomani & Sos di Milano e Pesaro. Dottor Ciaroni, buongiorno. Grazie di essere con noi anche a lei, lo avevamo già avuto ospite qualche mese fa nella nostra trasmissione in concomitanza, se non ricordo male, della presentazione del rapporto Nomisma Antiquaria. Più tardi ci collegheremo con la collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, Marilena Pirrelli, responsabile dell'inserto Art Economy 24, che è proprio l'inserto appunto settimanale dedicato all'arte e a questo tipo di mercato. Allora, dottor Manera, ci ha molto incuriosito questa novità di mercato appunto che avete presentato da poco, una gestione di portafoglio che investe in vino, in orologi antichi. Intanto avete fatto un abbinamento piuttosto originale, vino ed orologi, perché? Il vino perché da sempre rappresenta per noi italiani comunque un prodotto che tutti quanti conosciamo e apprezziamo. Gli orologi, non vorrei correggere, ma oltre che essere orologi antichi, sono anche orologi preziosi, cioè anche recenti, ma numericamente ma edizioni limitate. Bravissima. Quindi vini pregiati e orologi. Allora, c'è subito da precisare una cosa, che questa è una gestione dedicata solamente ad investitori di un certo portafoglio. Sì. Perché questo mercato non viene ritenuto, come dire, degno di essere distribuito anche tra investitori di taglio un po' più modesto? Sì. Beh, allora, diciamo che l'idea è nata proprio perché tutte le divisioni private bancarie offrono sostanzialmente, non dico gli stessi servizi, ma analoghi. Quindi volevamo tirar fuori qualcosa di innovativo, di nuovo, che potesse unire la passione dei nostri clienti a qualcosa di investimenti profittevoli anche. Quindi l'idea di partire, siamo i primi in Italia, utilizzeremo questi fondi lussemburghesi che staranno sotto una gestione, e quindi parleremo prima del fondo Nobel Cru, che è un fondo che investe sui vini. Mm-hmm. E adesso siamo partiti anche con questo sugli orologi antichi e preziosi, ma non ci limiteremo a questo, probabilmente nel prossimo futuro parleremo anche di auto storiche, parleremo di quadri e quant'altro. Ecco, ma le ribadisco appunto il tema, perché come dire, dedicarlo al momento solamente a portafogli di una certa importanza? Perché chiaramente questi tipi di investimenti al momento, per la loro scarsa liquidità, anche se il NAV sarà una valorizzazione mensile per quanto riguarda il vino e trimestrale per quanto riguarda gli orologi, intanto è dedicata alla clientela di elevato standing, perché intendiamo fare investire in questi servizi, in questi prodotti, non più del 10-15% del portafoglio dei nostri clienti. Allora, mi chiedo come mai abbiate deciso in questo momento di muovervi in questo settore. Avevate riscontrato una certa richiesta da parte della vostra clientela di proiettarvi su altri mercati, oppure così, non so, vi è venuta questa idea perché l'avevate vista da qualche altra parte? Come è venuta l'idea Banca Generali? È stata in parte casuale, perché la società di gestione sta in Lussemburgo a fianco alla nostra società lussemburghese. E poi perché ci ha incuriosito, e poi perché comunque è un qualcosa che personalmente, non solo me, ma sia il nostro direttore generale che il nostro amministratore delegato, è un qualcosa che entusiasma, e quindi abbiamo pensato che potesse. Poi chiaramente la mia origine piemontese fa sì che, Albese in particolare, fa sì che il vino sia da sempre qualcosa che e faccia. E anche le auto magari, un po' meno forse gli orologi, quindi poi mi deve raccontare anche come mai vi è venuta in mente l'idea dell'orologio antico e prezioso. Mi chiedo, visto che come dire, il fondo comunque, la gestione è partita da appena un mese, quindi non avete ovviamente l'opportunità di dirci che tipo di rendimenti è in grado di generare un investimento di questo tipo, ma anche esistono. Anche se qualcosa riusciamo a sì, dirlo. Sì, allora ce la dica. Allora, il fondo Noble Cru ha reso da inizio dell'anno il 4,74%. Era un fondo che quindi già esisteva? Già esisteva, sì. Negli ultimi 5 anni, mediamente invece, non il fondo, ma la rivalutazione di questo settore qui ha sfiorato il 13% di media annua. In che periodo? Negli ultimi cinque anni. Negli ultimi 5 anni più 13% l'anno, questo è solamente quello dedicato al vino. Sì, nell'orologio non c'è questa storia, non c'è questa... Mi incuriosirebbe veramente sentire il gestore che organizza appunto questo portafoglio. Speriamo che non sia Brillo, dottor Manera, dalla mattina alla sera. Il gestore è veramente una persona squisita, perché di mestiere ha fatto il banchiere per tanti anni, e poi con l'avanzare dell'età si è dedicato esclusivamente alla gestione di questi grandi vini. Bene, allora poi andremo a conoscere un po' meglio il tema, l'attività di questa gestione patrimoniale, ma soprattutto il concetto più in termini generali del passion investment, quindi l'investimento fatto anche per passione, proprio per passione. Forse per questo motivo che effettivamente lo si può permettere solamente a certi portafogli di una certa entità, anche se noi speriamo che questo mercato si evolva e magari queste opportunità di investimento, visto che sono così profittevoli, vengano messe a disposizione anche portafogli più modesti. Giancarlo Ciaroni, direttore della galleria Alto Mani & Sons, l'abbiamo detto anche prima, ma noi avevamo avuto modo di sentirla in un'altra trasmissione quando ci eravamo occupati del mercato dell'antiquariato nel nostro paese. Ho detto correttamente prima che effettivamente certi investimenti alternativi trovano spazio sulla cronaca solo quando spirano venti di crisi così prepotenti come quelli attuali, dottor Ciaroni? In altri momenti più felici per borse e obbligazioni, voi non riuscite a riscuotere questo consenso e questa attenzione? È vero, ha detto una cosa giusta. C'è un interesse molto attento in quest'ultimo periodo. Noi ci eravamo sentiti a febbraio e avevamo fatto delle previsioni comuni su certi oggetti di qualità, di conservazione, soprattutto di attribuzione certa. Le aste inglesi, che mi vedono di ritorno da pochi giorni, hanno confermato questo trend in pieno. Anche nella ritrattistica italiana, che sembrava ormai defunta, invece abbiamo avuto delle rivalutazioni del 100% rispetto a un anno o due anni fa, quindi diciamo che se negli ultimi 3 anni c'era stato un ridimensionamento anche del 30-40%, quelle opere di qualità certe nelle ultime aste di questo mese hanno riportato i valori a quelli di 3 anni fa, con un interesse anche del 10-15% superiore in questi ultimi 3 anni. Quindi quello che avevamo preventivato, di scegliere sempre bene opere anche non a cifre impossibili, perché ricordiamo che una buona ritrattistica si acquista dalle 20 alle 40 mila euro, un buon ritratto del 600 italiano, per fare un esempio. E devo dire che ultimamente hanno dato completa soddisfazione a chi ha creduto in questo tipo di epoca, come nei fondi oro, nella pittura italiana primitiva del 4-500, a danno del 700. Quindi ritorniamo al discorso di febbraio: farsi seguire da consulenti, se non si è già molto esperti, se non si hanno anni di esperienza alle spalle da collezionista, scegliersi un consulente serio che ha la vostra stima, seguire i suoi consigli moderatamente, senza fare pazzie, vedrete che i risultati verranno. Il trend è proprio quello che avevamo preventivata. Allora, tra l'altro poi ci darà anche qualche suggerimento pratico e concreto, dottor Ciaroni, per indicarci come si fa a riconoscere un consulente serio in questo settore, perché soprattutto chi non ci si è mai avvicinato decide di farlo adesso, perché borse e obbligazioni non gli danno più rendimenti soddisfacenti, certo che deve cominciare da zero, per cui oltre alla pelle, quindi alle sensazioni appunto di prima mano, forse deve anche tenere sotto osservazione altri parametri. Le voglio fare un'altra domanda, alla luce dell'esperienza di Banca Generali che abbiamo sentito poco fa, che ha creato questa gestione di portafoglio, che investe in fondi oltre che appunto organizzati nell'ambito del vino, quindi sì, oltre alla gestione appunto nel vino, anche una piccola parte in orologi antichi e preziosi. Lei che cosa ne pensa di questa finanziarizzazione in qualche modo del vostro settore? Un'ottima scelta, se pensiamo che un signore di Milano, che possiamo dire il nome, che si chiama Luigi Kelling, che comprò nel 90 un orologio di Vacheron molto raro, il più raro che c'era allora, è stato esitato in Svizzera pochi mesi fa, mi sembra febbraio-marzo, 4.300.000 euro, era un oggetto unico, quindi una rivalutazione incredibile, però per gli oggetti rari, ben conservati, anche se era un prodotto fatto negli anni 70, del 60-70, essendo raro, prezioso, ha ottenuto una rivalutazione da record. Quindi io negli orologi credo che sia lo stesso metro identico che nell'oggetto antico, che nel dipinto antico, la certezza della buona conservazione del manufatto, la certezza dell'attribuzione certa e quindi dell'autenticità, e questo non è difficile perché esiste un'associazione antiquari d'Italia che ha un elenco di iscritti che sono stati ben vagliati prima di accettare il loro ingresso nell'associazione, quindi un antiquario che dentro l'associazione già al 99% è di fatto una persona seria, un professionista che sul mercato esiste già da decenni e che dà una certa garanzia, poi non è poi così difficile oggi con internet o con altri sistemi di accertamento anche bancario di capire chi si ha di fronte, quindi non è così difficile scegliersi il consulente giusto, secondo me. Allora, Bruno Manera, ritorniamo a Banca Generali, alla gestione di portafoglio Lifestyle, dalla quale siamo partiti, appunto questa gestione che investe in fondi specializzati nel settore del vino, in orologi antichi e preziosi, diceva lei prima, tutto questo è contemplato nel concetto di passion investment che, come dire, sta orientando la vostra politica commerciale in questo momento. Certo che adesso quando parliamo di mercato finanziario la passione ci viene, ma per altri motivi, fino a quasi ad arrivare insomma un infarto quotidiano, basta guardare quello che è successo nelle ultime settimane, per non parlare di quello che è successo, che sta succedendo dal 2007 fino a questo momento. È ancora possibile parlare di un investimento fatto con passione? Che cosa c'entra la passione con il denaro? Beh, in effetti questi ultimi due mesi sono stati un po' particolari per il mercato finanziario e soprattutto per il mercato finanziario italiano. Perché? Perché probabilmente quello che da sempre nel nostro DNA, nella nostra storia, ovvero quello di pensare ai titoli di Stato come la nostra cassaforte, la nostra sicurezza, è venuto un po' meno. Questo però non deve fare smarrire la fiducia nel nostro paese. Noi continuiamo a gestire la nostra clientela attraverso, per l'85% attraverso strumenti di tipo obbligazionari molto prudenti e per un 15% attraverso gli equity e l'azionario. In questo momento qui è evidente che per un certo tipo di clientela il discorso della passione, quindi di poter abbinare all'investimento qualcosa di profittevole, anche il qualcosa di che appassione tipo il vino o gli orologi, fa presa. Lei ci diceva prima appunto la gestione è partita da un mese. Quando ci danno delle indicazioni di investimento, io ricordo, so che insomma la regola aurea dell'investimento azionario è quello di mantenere un pacchetto di titoli per un lungo periodo. La crisi attuale ha cancellato l'ottica del lungo periodo, perché in borsa ai minimi del 2008 praticamente il mercato è riuscito a cancellare i guadagni dei 12 anni precedenti. Quindi mi chiedo, voi quanto suggerite ai vostri investitori di rimanere su questi prodotti? Sì, l'orizzonte temporale di questo tipo di investimento deve essere almeno intorno ai 3-5 anni. Quindi un medio periodo lo possiamo considerare? Sì, un medio periodo. Perché? Perché la storia del vino fa sì che, un po' così come per gli orologi preziosi e gli orologi unici, fa sì che ci sia... stiamo assistendo a un aumento formidabile della domanda, non solo più quella tradizionale europea o diciamo degli Stati Uniti, ma anche e soprattutto adesso dei paesi emergenti. Quindi le do un dato significativo: fino a l'anno scorso le aste principali dei vini, due aste settimanali, si tenevano a Londra. Da quest'anno il primato è stato battuto da Singapore, Shanghai e Hong Kong. Quindi in quelle aree là ci sono aste settimanali in cui vengono battuti i grandi vini, specialmente i francesi di Borgogna e di Bordeaux, e in particolare anche qualcuno italiano. Ci racconta qualcosa del team di gestione che è dietro a questi fondi? Sì. Come organizzano anche il loro lavoro? Se lei peraltro conosce questi dettagli, insomma, come seguono anche il mercato del vino, esempio? Perché si divertiranno davvero dalla mattina alla sera, oltre che a cercare ovviamente le migliori occasioni di investimento. In parte sì, si divertono sicuramente anche i nostri clienti. Hanno dovuto fare il corso per sommelier, peraltro. Sono tutti qua. Il dottor Christian Roger, che è membro permanente del Grand Jury, è anche membro dell'Associazione Italiana Sommelier, quindi chiaramente, perché quando si fa un investimento non è che si debba aprire una bottiglia di vino e dire è buona o non è buona. Fare un investimento... No, anche perché quelli pregiati vengono gelosamente tenuti chiusi per decenni. Quindi poi potremmo anche invitarli a vedere dove si tengono questi non vini. Non ci tenti. Quindi ecco, qualche curiosità sul team di gestione. Questo signore qua ha fatto il banchiere e poi da qualche anno si è dedicato alla gestione di questi fondi. Ci vuole chiaramente la competenza, non tanto nel valutare un vino, perché comunque si parla sempre solo di poche etichette, non più di una ventina. Si parla essenzialmente dei grandi vini francesi di Borgogna, quindi Romani Conti o Latache, piuttosto che i grandi Chateau di Bordeaux. Quindi il Chateau Lafitte, il Chateau Latour, Lord Brion. Beh, vedo che anche lei però nel giro di pochi mesi è documentato al meglio. Ha dovuto fare delle prove sul campo per conoscere la composizione del fondo. Quello le faccio sempre volentieri. Però io da sempre sono appassionato di vino, essendo albese. Per cui nel fondo, oltre al... troveremo più del 90% di etichette francesi, ma troveremo anche etichette italiane, quindi parlando del Piemonte, i Baroli e i Barbareschi, e poi Toscana con Sassicaia e soprattutto Masseto. Dottor Cerroni, vengo a lei per l'ultima domanda prima della nostra prima pausa. Invece per chi investe, è chiaro che poi fare una generalizzazione è molto difficile, ma per chi è appassionato del mercato dell'antiquariato, che tipo di orizzonte temporale deve avere per trovare un adeguato rendimento appunto al suo investimento? Appassionato ha detto bene, passione ha detto bene, perché deve essere la molla principale per l'interesse, perché per approfondire ci vuole passione, se no si naviga ai margini e non si conclude niente. Il margine più lungo, dai 5 ai 10, è l'interesse medio che può dare una contropartita, perché pensiamo che attraverso soprattutto le case d'asta, che hanno un ricarico molto alto, mediamente del 30%, per ammortizzare questo 30% che una casa d'asta ricarica sull'oggetto che va a vendere, non si riesce a recuperare questo costo di rivalutazione in un anno o due, ce ne vogliono almeno 5. Quindi per vedere veramente un risultato soddisfacente, io dico da minimo di 5 a 10. Dottor Cerroni, se io avessi sentito una società di gestione del risparmio che applicava una commissione di questo tipo al fondo di investimento venduto al piccolo risparmiatore, mi sarei arrabbiata tantissimo. Però le commissioni di intermediazione non sono niente male anche in questo settore, per cui è chiaro che deve generare dei rendimenti oltremodo lusinghieri e interessanti. Salva Danaio. Eccoci ritrovati a Salva Danaio speciale estate. Noi oggi parliamo di investimenti alternativi, parliamo di arte, parliamo di antiquariato, ma parliamo anche di investimento in vino ed orologi antichi e preziosi, perché questi prodotti sono contenuti in una gestione appunto di portafoglio che si chiama Lifestyle, è stata creata appositamente da Banca Generali qualche settimana fa, il tutto appunto per capire un po' rispetto a borse, quindi azioni ed obbligazioni, dove vanno questi investimenti alternativi, che domanda c'è nel mercato italiano per questi settori, e soprattutto se sono degli asset di investimento adatti anche a piccoli risparmiatori. Non per tutti è così, per esempio Raccontavamo poco fa con il responsabile di Banca Generali per questo ambito, con il Sales Managers appunto Italia, Bruno Manera, che per esempio questa gestione di portafoglio è al momento rivolta solamente ad investitori di un certo taglio, la soglia minima di investimento è di 175.000 euro. Per il mercato dell'antiquariato invece si può anche trovare ovviamente qualcosa di molto più contenuto, e quindi questo è un mercato che può essere disponibile anche per investitori di più modeste tasche. Giancarlo Ciaroni, direttore della galleria Alto Money & Sons, torno a lei ancora. Allora, ci può raccontare intanto in questo momento di mercato? Lei prima ci raccontava dell'esperienza di aste recenti a Londra, che cosa è andato per il meglio, invece il risparmiatore italiano appassionato di questo ambito che cosa chiede in modo particolare? Ma un oggetto da poter godere, da poterselo inserire nell'interno del suo arredamento, che sia soprattutto alternativo, e in questo momento c'è da scegliere una buona qualità sia nella pittura primitiva italiana che nell'oggettistica del Rinascimento. Si riesce a trovare sempre dei bei oggetti a costi secondo me contenuti, e il tempo ha dimostrato che alla lunga la rivalutazione è soddisfacente. Ecco. Ho letto, forse queste regole me le aveva date lei nell'altra puntata in cui l'avevo invitata, esatto, dottor Ciaroni, che nel mercato dell'antiquariato si possono considerare quattro comparti: dipinti antichi, mobili di antiquariato, gli oggetti d'arte, quindi sculture, ceramiche e argenti, e infine dipinti del solo 800 italiano. Perché? L'Ottocento italiano è uno dei più stabili, diciamo, dei meno remunerativi, ma i più stabili perché, essendo opere firmate, quindi non attribuite, hanno una certezza di base, di partenza, mentre in un'attribuzione potrebbe crollare quell'attribuzione, non è più Tiziano, ma è scuola di Tiziano, da 100 vale 10. Ecco, nell'Ottocento questo non c'è, perché sono generalmente opere firmate, catalogate, per cui è facile anche fare i riscontri con altri che sono passati all'asta nell'ultimo semestre, nell'ultimo anno, e riuscire a fare la proporzione del valore. Quindi per l'Ottocento il discorso vale meno, certo. Il mercato italiano è più maturo rispetto ad altri paesi europei, dottor Ciaroni, oppure, vista anche, no, come dire, la bellezza delle nostre opere, il riconoscimento mondiale che la nostra arte ha? No, sono sempre i paesi anglosassoni i più interessati alle nostre opere. Se pensiamo che il fondo di investimento delle pensioni inglesi, Royal Fund, investe in opere d'arte italiane da sempre, cosa che nessuno fa in Italia. Se si immagina lei, se i fondi italiani delle pensioni italiane si programmassero, sembra assurdo. Invece loro lo fanno da quasi mezzo secolo e ne hanno soddisfazione, perché evidentemente continuano a ricomprare arte italiana, dalla ceramica alla pittura, la rivendono costantemente dopo i 10-15 anni e hanno delle rivalutazioni per loro soddisfacenti. Quindi è più il mondo anglosassone attento a questo mondo che a quello italiano. Bruno Manera, ritorniamo al vostro fondo, appunto, che investe in vini e orologi antichi. Per il 90% però questo fondo è proprio, come dire, sbilanciato, mi viene a dire il termine brutto, però in realtà è corretto, appunto, nel settore dei vini. Qual è il corretto processo di investimento che dovrebbe guidare un investitore in questo settore? Deve essere solamente mosso dalla capacità, ecco, del brava, proprio portafoglio, oppure ci deve essere il giusto mix anche con mortali consumatori? Dovessimo scegliere una grande bottiglia, un grande vino pregiato in un'ottica di investimento, probabilmente ci faremo guidare da quello che è il nostro gusto, dal nostro palato, no? Chiaramente l'esperto non si muove in questo senso, ma deve valutare tutta una serie di cose che poi stanno alla base del processo decisionale per scegliere quali vini andare a mettere in portafoglio. Sicuramente quindi bisogna conoscere l'andamento dell'annata, conoscere non sempre in determinati anni un grande prodotto cambia da anno a anno, da azienda a azienda, quindi bisogna sapere scegliere il tipo di vino da inserire, bisogna avere la conoscenza della qualità, bisogna capire qual è il vino che tendenzialmente avrà una rivalutazione nel tempo, quindi tutta una serie di considerazioni da fare, così come valutare la bottiglia, lo stato di conservazione, il luogo di conservazione, sono tutte parametri di valutazione che stanno alla base dell'investimento, del processo di selezione. Le faccio una domanda molto brutale, sciocca, sì. Ma dove sono conservate tutte queste bottiglie? Allora, in un posto magnifico, sono conservati in un cavò molto al fresco a Ginevra, Quando l'ho visitato mi hanno fatto entrare in pantaloncini corti. Proprio come in una banca svizzera, come se andassimo proprio a come dire, osservare i lingottini d'oro che immaginiamo. Proprio così, e stanno ad una temperatura costante e stanno lì a riposare in attesa che qualche telefonata arrivi da Hong Kong per prenotarci questi grandi vini. Senta, qual è il rischio di un investimento di questo tipo? Perché chiaramente non è quello meteorologico, che è quello che solitamente, come dire, distrugge i vigneti italiani e magari, come dire, manda male i raccolti e mette in ginocchio i vitivinicoltori. Certo. Qui ci saranno altri tipi di rischi, perché le bottiglie sono ormai belle invecchiate. Tra l'altro, qual è la più pregiata che c'è nel fondo? È una bottiglia di Romani Conti. Ah, è francese? Sì. Sa che lei sta parlando Borgogna, proprio con un ignorante Borgogna, del settore. È un grande vino di Borgogna. Quanto costerebbe questa bottiglia venduta singolarmente? Sopra i 100.000 euro. Però. Ma non la bevono mai i vitivinicoltori? No? Ecco. Bella domanda, perché normalmente perché pensiamo, stiamo parlando di bottiglie che invecchiano per anni e anni. Prima e poi sentivo il collega che diceva l'acquirente è una persona che, a cui piace comprarsi un quadro per poi guardarlo. Certamente, il gustarlo, vino, il vino deve essere gustato in un'altra maniera. Bravissima, ha questo grande, l'apprezzamento della bottiglia fa sì che il consumatore arriva a godersi l'aprire la bottiglia e consumare insieme agli amici. Quindi lei mi diceva quali sono certo i che rischi. Devono esserci quando accade delle cerimonie incredibili per aprire queste bottiglie di vino che hanno magari anche farlo in coppia se non da soli. Va bene. No, tra l'altro lei mi citava prima la più pregiata contenuta appunto in questo cavò di Ginevra, che appartiene poi a questo fondo di cui abbiamo parlato dall'inizio della trasmissione. Ma quant'è il tempo massimo di invecchiamento che rende ancora più pregiato il vino? Io tra l'altro la sto trattando più da uomo della finanza, da uomo proprio del settore. A qualche selezionato ospite, cliente nostro, abbiamo offerto una cena per presentare il servizio e alla fine della cena abbiamo offerto un vino di 150 anni. Però i nostri clienti e amici hanno potuto avete centellinato goccia per goccia veramente vino. No, lei diceva giustamente prima qual è il rischio. È sbagliato dire che sostanzialmente non esiste rischio, però diciamo che in questo caso è decisamente limitato. Tenga conto che la domanda di vini pregiati, di vini importanti, sta crescendo, frutto anche del coinvolgimento dei paesi emergenti, e sostanzialmente l'offerta rimane stabile. I grandi vini, la produzione di grandi vini può variare annata dopo annata in funzione dell'atmosfera, degli eventi così climatici, del più o meno 10%, 15%. Invece la domanda sta crescendo molto velocemente, l'offerta rimane stabile, per cui il risultato lo lascio a lei. Va bene. Allora Giancarlo Ciaroni, visto che appunto a differenza del vino, il pezzo d'antiquariato, il bel quadro dell'Ottocento, il ritratto dell'Ottocento, ovviamente ci piace più che altro appenderlo e godercelo in casa e quindi poi lasciarlo valorizzare per poterci garantire un rendimento di lungo termine di questo investimento, investire in arte, lo dicevamo prima, non è una cosa per soli ricchi o per patrimoni appunto importanti, per portafogli importanti, anche piccoli appassionati possono cimentarsi. Basta trovare degli interlocutori preparati e soprattutto onesti, perché anche questo è un settore in cui qualche furbetto appunto è presente. Primi fra tutti gli stessi galleristi, immagino. Sì, soprattutto quelli non iscritti a delle associazioni specifiche, quelli un po' ne esistono qualche migliaio in Italia, quindi voglio dire ce ne sono anche lì sicuramente professionalmente seri, però se io dovessi scegliere, sceglierei come se scelgo un buon avvocato, scelgo che sia iscritto all'ordine, che sia considerato dall'ordine degli avvocati. Stessa cosa va fatta per gli antiquari. Lo stato di conservazione che parlava il collega Vantona è lo stesso concetto identico a quello dell'arte antica, cioè come il vino deve essere stato ben conservato, il dipinto, l'oggetto, il manufatto, la maiolica deve essere ben conservata per essere considerata un investimento. Mm-hmm. Questo è l'unico problema che va approfondito e ci vuole un tecnico che guidi con mano esperta l'acquirente alla scelta giusta. Quando facciamo un acquisto in una galleria, dottor Ciaroni, che tipo di garanzia di autenticità devono fornirci i galleristi? È un documento scritto che ha un certo formato, certo, una certa tipologia? Certo, hanno l'obbligo per legge di rilasciare un certificato con la fotografia del manufatto venduto, e mi sembra male chiamarlo pezzo, di scrivere l'epoca dietro alla fotografia, sul verso, l'epoca, lo stato di conservazione, la percentuale dei restauri, l'attribuzione certa da chi è confermata, e sotto chiudere la vendita dicendo garantisco il legale possesso, legittima provenienza, eccetera eccetera. Quindi questo, quando è scritto da professionisti che sono iscritti all'albo, anche penalmente sono perseguibili anche dopo decenni o ventenni se questo non si verifica in esattezza per come descritto. Quindi il cliente ha una buona garanzia, perché penalmente il soggetto venditore, in questo caso l'antiquario iscritto all'associazione, iscritto all'albo eccetera, ha un obbligo penale oltre che civile, e questo credo che sia una garanzia abbastanza importante, cosa che non ha con le case d'aste o con altre intermediazioni, diciamo, più approssimative. Ecco. Certo. Allora, poi leggevo e mi ricordo anche che l'altra volta lei ci diede un'altra raccomandazione importante: farsi rilasciare dal gallerista una fattura con fotografia, certo, dell'opera venduta, perché altrimenti, certo, se ci si rifiuta, insomma, di avere questa documentazione, è bene dubitare un po' della professionalità. Importante il prezzo pagato, mi raccomando, il prezzo che venga ben chiaro, scritto. C'è un po' di tentazione di nero anche nel vostro settore, dottor Ceroni? In passato è stato una grande tentazione. Una grande piaga, aveva degli spiccioli, li metteva lì, e quindi, però poi non poteva, quando le cose andavano male o c'era una contestazione, non poteva poi rivalersi, perché aveva una fattura esigua di poche migliaia di euro e non poteva dire che l'oggetto era stato pagato 50 se in realtà in fattura era solo di poche migliaia. Quindi mi raccomando, il prezzo intero che venga indicato in fattura. Dottor Ceroni, con i chiari di luna che questo mercato ha, le obbligazioni sono finite sulle montagne russe, proprio come le azioni, in questo frangente è difficile un po' per tutti per orientare bene la propria scelta di investimento. Mi racconti qual è la vendita più bella che ha fatto quest'anno? Beh, la vendita più bella che abbiamo fatto quest'anno è un dipinto del 600 italiano, molto importante, che avevamo in stock da alcuni anni, che non era stato ben attribuito, e finalmente è arrivata la documentazione certa dell'attribuzione, del pagamento, di tutti i documenti che descrivevano bene quell'opera, e quindi è diventato blindato, e quindi ha spuntato una cifra di 10 volte più alta di quello che era in vendita qualche anno fa, quando questi documenti non c'erano. Benissimo, io la ringrazio per essere stato con noi, la sua disponibilità mi è sufficiente fin qua. Dottor Ceroni, grazie e buon lavoro, magari la risentiremo nei prossimi mesi per rifare di nuovo un punto su questo mercato, il grado di interesse degli investitori italiani. Buona giornata. Anche voi, attenzione. Noi invece, attenzione. Salva Danaio. Ultima parte di Salva Danaio per questa puntata speciale estate. Abbiamo scelto di parlare di investimenti alternativi, il mercato dell'arte, ma addirittura il mercato dei vini, grazie ad alcune gestioni di portafogli appunto nuove che stanno in questo momento proponendosi sul mercato. Abbiamo parlato del mercato dell'antiquariato. Marilena Pirrelli, collega di Plus 24, del Sole 24 Ore, responsabile dell'inserto Art Economy 24. Buongiorno Marilena, benvenuta. Buongiorno a voi. Allora, un bilancio della prima parte di quest'anno, come dicevo io all'inizio, scosso ancora da venti di crisi preoccupanti, perché abbiamo scoperto anche questo volto inatteso della crisi, inatteso relativamente perché un po' era stato anche preannunciato, della crisi dei debiti degli stati sovrani, appunto. Il mercato dell'arte come si è mosso? Quali sono stati i temi più rilevanti di cui ti sei occupata per Plus 24? C'è stato un atteggiamento diverso nei confronti di questo mercato, visto che azioni e obbligazioni ci hanno mandato letteralmente sull'otto volante, non solo il nostro portafoglio ma anche il nostro cuore, Marilena? Assolutamente sì, l'arte reagisce in modo diverso, proprio perché non viene considerato un asset finanziario, e anche a far questo, cioè a confrontarlo come indici finanziari, scopriamo che l'NPS, vedi l'index del mercato dell'arte, comunque guadagna molto di più rispetto agli indici, l'S&P 500, il FTSE MIB. Stiamo parlando di un più 45 rispetto a un più 6 nel semestre, eccetera. Quindi se abbiamo editori dell'arte, che comunque sono molto pochi rispetto ai titoli azionari dei comparti più ampi, i titoli dell'arte mostrano una ripresa, ma se poi noi andiamo a leggere nelle aste gli andamenti proprio degli aggiudicati, anche qui scopriamo che il mercato dell'arte ha reagito alla crisi molto prima, che gran parte della ricchezza a livello mondiale si è riversata su questo comparto con acquisti di elevatissima qualità, spalmati un po' su tutti i settori, dall'antico al moderno e al contemporaneo. Naturalmente le varie piazze da Londra a New York, a Hong Kong e a Milano hanno risposto in modo diverso. L'America ha perso rispetto a Londra e all'Europa, che ha saputo attrarre evidentemente collezionisti dal Medio Oriente, dall'Asia e dalla Russia, e invece Hong Kong è una delle piazze più importanti, che è esplosa e che rappresenta ormai una delle la seconda quasi piazza, comunque, che rincorre in qualche modo l'America e che strizza un po' l'occhio a Londra. Ma l'Asia, scusami Marilena, è esplosa in che senso? In termini di investitori che si propongono con i loro portafogli appunto in questo mercato, o proprio come mercato di riferimento di nuovi artisti? Esplosa come mercato di scambio, e a questo ovviamente fa seguito anche un mercato degli artisti, nel senso che poiché lì ci sono i flussi più grossi e la creazione di nuovi collezionisti, proprio perché è lì che si costruiscono i nuovi ricchi, la nuova classe dirigente, insomma, di un paese che sta cambiando volto, lì si costruiscono le collezioni che spesso partono dall'arte locale. Infatti ne parleremo nel prossimo numero di Plus. L'arte cinese dei primi del Novecento sta avendo un grandissima forza in asta, e anche l'arte contemporanea e diciamo post-war del Novecento occidentale. Quindi tutti i galleristi, abbiamo visto che anche Art Basel adesso si trasferirà in una fiera a Hong Kong, tutte le grandi major delle case d'aste e quant'altro stanno individuando in quei mercati, Shanghai, Pechino, Hong Kong e tutta l'area indonesiana, come mercati di sviluppo e di sbocco per l'arte occidentale o per l'arte locale. Per quanto riguarda l'Italia, volevo fare certo, un riferimento invece al mercato italiano, che rimane un mercato sicuramente più solido, più concentrato sul Novecento. È un mercato che non ha grandi offerte sul contemporaneo, se non qualche chicca, mentre vede i nostri autori ormai storicizzati come Fontana, Boetti, Morandi avere grandi opportunità, avere collezionisti anche internazionali che acquistano attraverso il telefono o attraverso il web. E quindi Milano, da questo punto di vista, ha, grazie alla sua storica presenza di collezionisti, quindi di un serbatoio molto forte dal quale trarre opere di grande valore, che poi ahimè perdiamo perché appunto possono finire in altre nazioni, e finché appunto la notifica non le blocca finiscono appunto in collezioni internazionali. Marilena, quanto sono disposti a sborsare gli investitori internazionali per un nostro Fontana? Beh, i nostri Fontana sono stati acquistati per diverse centinaia di migliaia di euro. Dunque, l'ultimo Fontana che ha avuto un grossissimo successo sono stati sia da Christie's che da Sotheby's, come sempre vengono affiancati, un concetto spaziale del 1963-64 scambiato per 731.600 euro da Christie's. Quindi i valori sono abbastanza importanti. Certo, sulla piazza londinese si otterrebbe ancora di più, perché gli offerenti sono solitamente di più, però insomma 700.000 euro per un concetto spaziale è sempre una bella cifra. Ed è quasi come dire uno di quegli investimenti che nel futuro non potrà che rivalutarsi. Marilena, adesso io non so, da un po' che non ti vedo, non so se ti è capitato appunto di andare a Londra a seguire queste aste o meno ultimamente. Ci racconti un po', sicuramente hai sentito qualcuno che le frequenta in ogni caso abitualmente, che clima si respira in questo momento? C'è un certo distacco rispetto alla crisi finanziaria che ancora ci tocca molto da vicino, visto che comunque stiamo parlando di investimenti ad appannaggi in ogni caso di investitori di una certa portata, oppure è un mercato che in qualche maniera o con quali effetti risente della crisi circostante? Allora, è un mercato sempre più composto da collezionisti e privati e meno da operatori. Proprio quello che tu dicevi, in queste aste, io lo osservo a Milano, a Londra, ci sono ovviamente i galleristi, come sempre, i dealer, però che alle volte lasciano volentieri l'ultima battuta al collezionista privato, proprio perché si difende sempre il proprio artista in asta, il proprio portafoglio, però se c'è da contendere con un collezionista privato, poi alla fine si lascia l'ultima battuta a lui, l'ha giudicato a lui. Però perché gli operatori hanno meno flusso di cassa, per ovvi motivi, perché in galleria si scambia meno, questo è evidente, si scambia più in asta dove i compratori possono arrivare da tutto il mondo. E quello che mi suggerivano diverse case d'asta è che sempre più è il collezionista, è il privato ad acquistare, il privato che evidentemente, come dici tu, bruciato dalla crisi e da tanti investimenti che alla fine si risolvono con, come dire, un rendimento molto basso, scelgono evidentemente, per chi può evidentemente avere un portafoglio così ampio, anche allocare in queste opere d'arte sicure come appunto un Fontana, un Morandi, un De Chirico, che non si svaluteranno proprio per quello che noi osserviamo, è proprio questo, che lo storicizzato, l'arte storicizzata italiana sta tendendo da diversi anni ormai a rivalutarsi. Marilena, io ti ringrazio per essere stata con noi, naturalmente siamo qua così in attesa dell'uscita dei prossimi numeri di Plus 24, di Art Economy 24, per monitorare anche questo segmento di investimento che è sicuramente molto interessante, proprio anche per così verificare la sua relazione rispetto alle altre asset class, quindi soprattutto azioni e obbligazioni. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie ancora. E io concludo la mia chiacchierata, ritorniamo un po' ad ubriacarci, perché insomma ci fa piacere anche un attimo estraniarci da queste cattive notizie che continuiamo a dare, con Bruno Manera, Sales Manager Italia di Banca Generali, perché come vi ho detto questo gruppo in questo momento si sta dedicando appunto ad una gestione di portafoglio particolare, vino e orologi antichi all'interno, 90% vino e 10% orologi antichi. Dottor Manera, che tipo di, non lo so, attese avete rispetto a questo prodotto lanciato da poco, sicuramente per soddisfare le richieste di una clientela che ha delle esigenze particolari, ma avete già adocchiato un'altra asset class particolare? Lei prima ci diceva auto d'epoca, ma poi che cos'altro? Auto d'epoca, quadri. Quindi il mercato dell'arte vi interessa, dovrà poi documentarsi al meglio anche in questo settore. Qua però è dura, perché il vino è una passione, ma l'arte... Sarà un po' più complicato, sì, è vero. No, direi che comunque, per concludere, proprio per dare un suggerimento, se vogliamo evidenziare il principale vantaggio di questo tipo di servizio, proprio la decorrelazione rispetto alle crisi e alla volatilità dei mercati. Questa è la cosa principale che vorrei fosse presente. Lei mi deve dire però una cosa ed essere molto sincero. Mi racconti di una trattativa con un cliente che una volta che ha proposto questo prodotto le ha detto: ma ci stai con la testa? Ma sei proprio sicuro di volermi proporre una cosa del genere? C'è qualche diffidenza, qualcuno che guarda con grande consenso a... No, perché questo tipo di servizio... ci saranno i tradizionalisti che quando parlano di investimenti pensano solamente ad obbligazioni, azioni e poco altro. No, è riservato a quei poche centinaia di nostri clienti che sappiamo essere interessati da questo tipo di servizio. Quindi siete andati a colpo sicuro. Andiamo a colpo sicuro. Senta, un'ultima domanda prima di lasciarla. Lei comunque fa anche l'uomo di finanza, oltre che ad essere responsabile della rete di private banking. Che in autunno ci dobbiamo aspettare sui mercati? Ci vuole dare una parola rassicurante? Dobbiamo prenderla bevendo, insomma, quindi bere per dimenticare? Sì, oppure possiamo dare qualche parola di serenità ai nostri ascoltatori? Brava. Probabilmente passeremo ancora qualche mese dove la volatilità la farà ancora da padrona, però sicuramente dopo la tempesta tornerà sereno. No, perché questa crisi dei debiti sovrani ci ha scosso un po' di più della crisi dei subprime americani e quant'altro. Io la ringrazio per essere stato con noi, vi ripresento Bruno Manera, Sales Manager Italia di Banca Generali. Buona giornata e buon lavoro naturalmente. Grazie anche a voi, buongiorno. Io ringrazio Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Carmelo Lauricella in assistenza tecnica. Buona giornata a tutti.